raccoglieremo nello stesso sacco lo stesso destino. Verrà San Martino, io e te metteremo di nuovo nel sacco il destino. È tutto in prestito, tutto è a metà e va riconsegnato in ottimo stato. Dove c'è strada tornerà campagna, rimetteremo le spine alle castagne, i fiori alle corolle, i nidi ai petti rossi, la nebbia ai fossi, il fumo alle zolle. E questo è tutto quel che ho per te, è tutto quel che ho per te. Verrà San Martino e noi raccoglieremo nello stesso sacco lo stesso destino. Verrà San Martino e io e te metteremo di nuovo nel sacco il destino. Darà di matto il gufo reale, senza il rumore della statale. Circospetta, ci guarderà la civetta, riconsegnare il buio alla sera. Da così tanto tempo la rondine aspetta il vento, e il vento primavera. E questo è tutto quel che ho per te, è tutto quel che ho per te. La la la la la la la. Verrà il padrone a controllare, ci guarderà partire, chi ci avviene troverà il letto di pannocchi su cui ci siamo stretti, l'ombra per riposare, l'orizzonte così lungo da guardare.